ammazzare la noia, è il nostro solo mestiere. 24 mattino, l'Italia si desta, di Alessandro Milan. Noi vogliamo elettori, siamo per la riforma, uninominale, secca, l'inglese, con doppio turno, la francese e il ballottaggio, e lo scorporo del proporzionale al Senato e alla Camera, per il presidenzialismo e il cancellierato alla tedesca, il problema alla Sartori, e vogliamo il presidenzialismo all'americana con la soluzione alla francese e l'uninominale all'inglese, i bucatini alla matriciana e la bistecca alla fiorentina. Gliel'ho detto a Moratti, caccia via quel filippino, no, che ha preso a fare. Ma non doveva difenderlo, no? Vabbè. Scusa, che viene da Indonesia a insultare un emblema del calcio italiano. C'ero Moratti, io gli ho dato due pizzicotti sui ricchi. Ecco, meno male che ha detto pizzicotti e non ha detto qualche altra cosa. Si fermi un attimo. No, si fermi un attimo, perché adesso andiamo un attimo. No, comunque voglio molto bene a quel signore. Chi? A chi? Indonesiano. A Toir. Pensa se gli voleva male, voglio dire, che cosa poteva dirgli, voglio dire. Vabbè, vogliamo iniziare così con Erviperetta, dai, devo tirarmi su di morale un po' con Erviperetta. Poi tra l'altro sabato c'è Sampdoria a Milan, ci fanno un mazzo così. Cioè, almeno una squadra di calcio che va bene, dai, che fa divertire Erviperetta, mamma mia. Cos'è questo lino della Doria? Ragazzi, ma che schifo è, ma... Ma gli di calcio, le squadre di calcio fanno tutti schifo. A massimo rispetto, ma insomma, dai, ma musicalmente... Dai, tifosi della Doria, che dite? Tifosi blu cerchiati, però ci avete Erviperetta, ma quanto vi divertite, Quasi come noi, quasi come noi. Vorrei subito chiedere un soccorso, un aiuto... Ah, Silvia Brasca, fratella, sorellina mia, interista, come stai? Come stiamo? Non lo so, è il calcio dei morti viventi. Mamma mia, ragazzi, chiamate Milano 0202, questo titolo alla Gazzetta dello Sport. Ieri ho detto no, non faranno il titolo, chiamate Milano 0202, perché io straccio la Gazzetta. Oggi in prima pagina, chiamate Milano, ma la fantasia dov'è? Era un titolo degli anni 70, chiamate Milano 0202. Si sta come d'autunno sugli alberi le foglie, cara Silvia Brasca, interista. Vabbè, cara Silvia, ti voglio presentare un uomo simpatico come una Coca-Cola calda e sgasata nel deserto del Gobi, Federico Novella. Oh, buongiorno, mi sa che io sono l'unico di buon umore questa mattina. Buongiorno, Milano. Gobbo maledetto, Gobbo come va, malefico. Come va? Vedo che tutte le cose poi tornano al loro posto, Sì. A lungo andare. Sì. Ah sì, a cosa alludi? Hai passato una settimana ad esultare per un nostro minimo passo falso. Esultare? Io? Sì, tu, no, tu su Twitter, io lo leggo. No, Twitter, che ho scritto su Twitter? No, quando ci siamo un momentino arenati, sì, lì col Palermo. E che ho scritto? Non me lo ricordo. Me lo ricordo io, hai scritto che quando non ci danno dei gol in fuorigioco perdiamo. Cioè, delle cose proprio lunari. Magari pareggiate, insomma, che poi Silvia Brasca, ho scritto la pura verità, non è che di qualcosa, insomma, Silvia? No, io ieri sera, sì. Io ormai sono impietrita quando parla di calcio. Anche l'altro giorno non riuscivo neanche a twittare, cioè, e anche adesso fare la cattiva con... Io ho un marito milanista, cosa facevo? No, infatti, guarda, cosa si fa? Io ho una moglie romanista, quindi, cioè, che dobbiamo fare? Dobbiamo fare. Vabbè. No, anzi, è una cosa bella, perché spero che vincano il campionato quest'anno, e così almeno rimane in famiglia. Vabbè, visto che noi... Io ho vissuto anche a Roma, guarda che se la Roma vince il campionato non ci si salva. Ho capito, dobbiamo farlo vincere ancora questi qui, basta. Ce l'abbiamo, Oscar Giannini? Qui. Questi qui, dai, hai capito? Bisognerebbe rispolverare il mitico Oscar Giannino quando disse il suo. Adesso magari lo recuperiamo. Lo scudetto alla Juve, dobbiamo dare quel basta di Oscar Giannino che fece storia qui a Radio 24. Magari poi lo recuperiamo. Intanto sono le 6:35 minuti. Fatemi qua. Abbiamo iniziato così. È la 79esima settimana decisiva per la riforma elettorale e l'abolizione delle province. Attenzione che oggi Lorenzo Guerini, vicepresidente del PD, dice: ma l'Italicum si è arenato? No, non lo so, si è arenato, vabbè, comunque la riforma elettorale. Comunque, scudetto alla Juve! Basta! Basta! Basta! Questo sarà il mio mantra per tutto. Ma oggi sei già esaurito lunedì mattina, Milano. è così. Va bene. Allora, questa vogliamo aprire con Lorenzo Nespoli in redazione e il nostro Peter Bescapè in regia al Parlamento. Dai, che è la 79esima settimana decisiva ormai. Adesso vado a prendere un caffè, quindi semmai ci vediamo più tardi. Grazie. Un caffè per la Boschi. Forza. E allora, siamo con Silvia Vrasca, avete capito, del TG della 7. Siamo con Federico Novella che conduce Mattino 5. Oggi alle 9 che farai, caro Federico? Oggi alle 9 ci sono due argomenti di stretta attualità. Sì. Ci sono i genitori di Cookie. E poi ci sono alcuni occupanti di case. Ma guarda che questa a Milano soprattutto, ma anche a Roma è incredibile. Sta diventando una guerra tra poveri e sta diventando anche una moda quella di occupare le case, nel senso che qualcuno comincia a considerarlo normale a Milano. Per una serie di motivi che, insomma, se vuoi cominciamo a elencare. Però no, ma guarda, qua anche oggi il Corriere della Sera ci torna con Andrea Galli, stanno facendo un'inchiesta, Gianni Santucci, stanno facendo un'inchiesta a puntate, insomma è incredibile, le periferie di Milano, le zone magari un po' più, insomma, dove ci sono le case popolari, ci sono gente che sfonda le porte, come negli anni 70, Sta tornando veramente questa emergenza case, con anche, ovviamente, come hai detto tu, guerre tra poveri poi. Perché poi dipende dall'aumento degli sfratti, sicuramente, dipende dal fatto che a Milano non hanno più i soldi per metterle in regola e quindi le lasciano sfitte, e dipende anche dal fatto che probabilmente non hanno neanche le forze per vigilare, no? Con la polizia locale. Sì. È un po' più delicata questa volta, Federico, nel senso che appunto che c'erano state le inchieste per cui c'era una criminalità organizzata italiana che gestiva questo racket, e adesso ha fatto un passo indietro rispetto, sono spesso, soprattutto nella zona San Siro, sono tanti nomadi e loro hanno fatto di origine romena, c'è stato un passo indietro anche su di loro, e se prima la popolazione, rispetto a chi abitava lì, rispetto alla criminalità organizzata, stava zitta, ora con questa nuova tipologia invece un po' si ribella, e secondo me fa molto bene il Corriere. Ma tu hai citato l'inchiesta nazionale, perché se la stava facendo sul dorso di Milano. Ma no, è vero, un'inchiesta che racconta sembra veramente quella di Via Bianchi dei primi anni 90. Fa bene perché è una realtà davvero quotidiana in larghe fette della città. Ovviamente accade soprattutto nelle grandi città dove ci sono tante persone, c'è l'emergenza delle case. Tu hai citato però l'altro tema che ancora è prepotentemente sui giornali. No, la vicenda Cucchi, ragazzi, io ieri ho letto l'articolo di Giovanni Bianconi sul Corriere della Sera, ero sconvolto, lo so. Cioè si è scoperto, peraltro si è scoperto, non si sa perché adesso e non qualche anno fa, che quando Cucchi è stato arrestato è stato fatto nel verbale d'arresto, è stato messo che era albanese senza fissa dimora, questo perché evidentemente per una sciatteria del funzionario che l'ha arrestato, che aveva prima arrestato un albanese, allora ha preso quel modulo lì, ha compilato coi nomi Cucchi e non ha cambiato i dati di dove è nato, e quindi il giorno dopo il giudice che voleva dargli gli arresti domiciliari ha detto non si possono dargli gli arresti domiciliari perché è albanese e senza fissa dimora. Ma come? Poteva salvarsi. Essere ancora vivo. Voglio dire, è una cosa incredibile, da una sciatteria poi evidentemente sono nate tutta una serie di altre complicazioni. Vogliamo sentire Ilaria Cucchi, la sorella di Stefano, era da Fabio Fazio, credo. Questa sentenza per insufficienza di prove è il fallimento della Procura di Roma, non è il mio fallimento, non è il fallimento del mio avvocato, è il loro, quello della Procura di Roma, dello Stato italiano e della giustizia. Cosa c'entra la droga con questo? Questa è l'immagine di mio fratello, così come ce l'hanno restituito dopo 6 giorni. E non c'entra un bel niente con la droga. Allora, questa ecco, tra l'altro sull'immagine voglio chiedere a due persone che fanno TV, perché oggi Giuliano Ferrara fa sul Foglio tutto un editoriale, il suo editoriale del lunedì, a dire però io non condivido il fatto che vengano sbattute in faccia anche sui titoli dei giornali, nei giornali, anche in TV, le immagini, lo sappiamo, di Cucchi morto, ma non è solo il caso di Cucchi, ci sono altre persone che sono morte in circostanze poi da chiarire perché fermate le forze dell'ordine. Federico, tu che ne pensi? Di questa esibizione per fare, ovviamente anche per scioccare l'opinione pubblica, per vedere guardata come ce l'hanno ridotto. Però posso dirti, sì, stavolta non è un'esibizione gratuita, è una prova, anzi è esattamente il motivo per cui ci stiamo indignando, perché è evidente quello che è successo a questo ragazzo, è evidente che non è morto di freddo, è evidente che non è morto per una dose di erba che si è fumato, e quindi assume secondo me una valenza giornalistica. Diverso è pubblicare, che ne so, la vittima di un incidente stradale, sì, diventa, ovviamente poi bisogna distinguere da caso a caso, però è la forza dell'evidenza che ci porta a dire a quei sindacati dei poliziotti che hanno detto ma no, lui fa una vita dissennata, problemi in famiglia, vergognatevi che siete dei fascisti, è la forza dell'evidenza. No, no, questa del processo alla vita di Cucchi, ma sai quanti ancora ci scrivono, anche Silvia ci scrivono, ma ancora vi date da fare per un drogato, per una persona che aveva... Cioè, ma voglio dire, ma ormai vabbè, ma c'è un livello, la gente per scrivere un messaggio e dire quello che gli passa nella pancia, non nella testa, insomma, ci mette 3 secondi, ma te Silvia che ne pensi? Ma penso, sono assolutamente d'accordo con Federico per quanto riguarda le immagini, sono state per molte di queste madri, queste famiglie, proprio a un certo momento l'unica arma che avevano, e sulle debolezze, chi ha avuto delle fragilità, dei problemi andrebbe ancora più tutelato, e spesso noi tutti siamo inadeguati a volte ad affrontare, no? Ad affrontare delle persone in un momento di debolezza, non lo dovrebbe essere lo Stato, ecco. In ogni caso, insomma, chissà se questa vicenda verrà riaperta dal punto di vista giudiziario, perché così il procuratore di Roma, Pignatone, dice potrebbe succedere, perché poi dice la frase: quando uno è nelle custodia dello Stato, chi che sia, non può morire così, voglio dire, era in custodia dello Stato. Visto che tu avrai i genitori, vorrei sentire anche la madre di Cucchi. Lo Stato si è autoassolto di nuovo, quindi se non ci sono colpevoli, l'unico colpevole chi è? Quelle quattro mura, lo Stato, l'unico colpevole. Lo Stato si è autoassolto, Federico, questa è la linea. Sì, loro se non sbaglio oggi vogliono presentare una denuncia al Ministero, e la cosa che fa più paura è proprio questa, che ci siano dei pezzi di Stato che possano coprirsi l'un l'altro, come hanno fatto evidentemente, come stanno facendo, gettando fango poi sui pezzi che funzionano, perché noi siamo sempre stati attenti a difendere la polizia, in quanto a difendere gli uomini in divisa, quelli che prendono le coltellate per 1200 euro al mese, ma è proprio per difendere loro che qualcuno dovrebbe parlare o indurre a parlare i responsabili di questa vergogna. Ma qui ormai insomma si è incanalata in una situazione in cui non lo so, chissà se la verità giudiziaria mai, che poi la verità giudiziaria è questa secondo le sentenze. Forse però anche qualche parola in più. Cioè c'è stata una sentenza di primo grado e c'è stata una sentenza d'appello. Registriamo e apprezziamo le parole di Pignatone, che vuole riaprire in qualche modo il caso. Qualche parola in più dai vertici delle istituzioni forse sarebbe stata utile, perché le sentenze si rispettano, però si possono anche commentare. Cioè da chi ti aspettavi? C'è sempre un silenzio, sì. Quando ci sono le cose un po' urticante. Quando bisogna parlare, quando bisogna parlare c'è silenzio, e quando non serve invece si parla. Effettivamente questa è una piccola grande verità. Hai capito, la Coca-Cola calda sgasata. Ma non ti sento che stai andando a Mediaset, tra l'altro. No, perché oggi arrivo un po' più tardi, sono ancora a casa. Fantastica sta cosa, ti abbiamo svegliato. Cioè, tu oggi... No, non mi avete svegliato, però diciamo che posso permettermi di arrivare un po' più tardi stavolta, e quindi me la prendo comoda. Vabbè, ho capito, e allora siamo tutti sereni per te, insomma. Poi se non mi vedete in onda sapete a chi dare la colpa. Infatti. 24 mattino. Caro Milan, Landini è uno di Reggio Emilia, sa come sono fatte le questure e i poliziotti? La questura ha sempre un infiltrato e i poliziotti manganellano, non sono cambiati, sono sempre quelli degli anni 60, dei tempi di Tambroni, sono sempre quelli. Per quanto riguarda la cena con Renzi di 1.000 euro, come faccio io che prendo 1.200 con la serata vi gioco tutto? Che buffoni abbiamo in Parlamento, che buffoni. Buongiorno Milan, senti, ti voglio dire una cosa, cerca di trasmettere qualche lamentela seria, non le solite minchiate. Ho l'impressione che il tuo datore di lavoro ti abbia dato una bella stretta e non sia più la trasmissione di una volta. Ma fammi cambiare idea. Renzi, ma vattene a casa, cerca di non prendere i cittadini per il culo. Anzi, non falli come l'albero di Natale, li riempi di palle. Quella macchietta vivente di Alfano ha riferito in Parlamento che c'è stata la carica della polizia contro gli operai, perché una voce diceva che potevano occupare la stazione Termini. E allora, perché ci sono in giro voci che dicono che Alfano è un mafioso, cosa facciamo? Gli diamo il 41 bis? Con tutte queste storie, invece che ricorrere al TAR, è meglio ricorrere al bar. Al bar, mi sembra giusto. Vabbè, questa è la nostra segreteria telefonica. Non ho capito quello che si lamentava. Cos'è che mi ha dato il mio datore di lavoro? Una stretta. Una bella stretta che hanno dato. ma si vede anche dal tono di voce, oggi, no. Una bella stretta. Ma il tono di voce è che dopo Milan Palermo, ma che vuoi dire? Non volevo manco presentarmi. Oh, allora, ma mi hanno colpito oggi i giornali. Quando la politica per un giorno si ferma è tutto bello, perché spuntano delle notizie. A parte questa cosa dei test di medicina, ma l'avete vista? Cioè, ma è fantastica, cioè, hanno fatto un errore umano, hanno invertito le buste, hanno mandato 30 domande a quelli e dovevano mandarle a quegli altri, in pratica, no? E però si è dimesso il direttore del Cineca, questo consorzio che fa le domande, vabbè. Ma soprattutto questa, amici miei, eccola qua su Repubblica, la cuccagna dei premi ai dirigenti pubblici a Perugia. Un dirigente ha preso 8.000 euro di bonus perché ha contato le scrivanie. Ha contato le scrivanie, Silvia Brasca. Vai dal tuo direttore, di risultato. Ho letto che aveva preparato bene i festeggiamenti per il gemellaggio con Bratislava. E noi ridiamo, e lui prende, o lei prende, il bonus per il risultato raggiunto. Sai Federico quanti ottengono il risultato nei dirigenti? Il 92%, forse anche di più del 92%. Ma contano tutti le scrivanie. È il 6 politico quello, è 6 però. Sì. No, più che il 6 politico sono i 6.000 euro. Sono 6.000 euro politici. Sì, contano le scrivanie. Vai tu, Federico, prova a dare tu anche. A dire, guarda, se volete faccio un bel premio produttività, vi conto i cestini di Mediaset, vai al passo. No, penso che no, mi sparano via da Cologno con un cannone. Se... No, potrebbe essere, poi alla fine dici i cestini recensiti sono, bravo, caro Federico, premio produttività raggiunto, 6.000 euro in busta paga. Alla dubito fine. Fortemente, sono dirigenti che contano quelli. Sì, la cuccagna dei premi ai dirigenti pubblici. Questo su Repubblica, ma vabbè, insomma, è la settimana, tornerà la questione del lavoro, tornerà, sentite qua Landini stamattina. Che succede stamattina? Stamattina Cerenza a Palazzolo, lì alla Palabrescia, Cerenzi. Ah, Cerenza, con l'incontro, con l'incontro con Confindustria, lui a Bresciana, che è fortissimo, le ha detto: no, ma non la facciamo all'auditorio, si va in fabbrica. Si va in fabbrica. In fabbrica. E lì, però gli operai Cerenzi sono stati in fabbrica. Messi in ferie forzate. Ah, è vero, è vero, c'è la polemica perché gli operai sono stati messi in ferie forzate. Tra l'altro, invece, c'è anche la polemica che questi 1000 euro, avete sentito, i 1200 euro del nostro lavoratore, che non andrà certo a spenderne 1000 per finanziare il Partito Democratico alla cena di Renzi. Ma voi, ovviamente, cara Silvia, il 6 novembre a cena, tu sei con Renzi, vero? Dai, caccia il millino. Caccia il millino. Noi serviamo, ma vorrei essere una mosca. Serviamo a tavola noi, siamo incognito. Federico Novella si maschera da cameriere in livrea per cercare di ottenere una dichiarazione da Renzi. Poi la Silvia fa il caposala, io servo ai tavoli. Il giorno dopo, a mattino 5, col microfono nascosto. Oh, sai che è un'idea grandiosa. Sai che non sarebbe male? Tu paga 1000 euro e poi puoi entrare. Ti nascondi il microfono da qualche parte. 1000 euro per cenare con Renzi. Dai, Federico, di la verità che sei tentato lì con tua moglie a dire. Ma guarda, sto mettendo da parte i soldi da mesi per questo appuntamento. No, magari dici: non lo so, dai, andiamo in 2008, la spuntiamo. Però c'è da dire che non è l'unico, eh. Ma no, anche in Italia l'hanno fatto spesso, queste cose si fanno. Fa bene, si fanno, certo. senza dirlo troppo in giro, ma si fanno. Ma no, l'ha fatto Berlusconi, poi in America si fa, è una roba normalissima per raccogliere soldi per il partito. Comunque sentite Landini a proposito di partiti, non mi candido, Landini ieri era da Lucia Annunziata. Lei scende in politica, posso dire, o no? Allora, io non scendo in politica, ma faccio un po' che lo dico. Sale il 10% nella mia testa, dicono i migliori. Guardi, non me ne frega italiani. Proprio, non vorrei essere offensivo verso nessuno, non me ne frega nulla, e soprattutto trovo strano che facciano dei sondaggi su una cosa che non esiste. Cioè, quelli che dicono che mi voterebbero quando sanno che io non mi candido, non so come fanno a ragionare. Ma è sempre così incazzato, Landini. Ma non, cioè, si sveglia così. Fa parte del personaggio, dice. Il sindaco, come si dice, il capo della FIOM non può essere rilassato. C'è sempre questa idea di essere appena smontato da 8 turni, da 8 ore in pressa. Cremaschi invece aveva un aplomb, anche Airaudo, il torinese, lui invece picchia duro. Sentite. No, c'è un messaggio fondamentale, un messaggio di servizio. Beppe scrive per Federico: devi partire, c'è la tangenziale est bloccata. Lo so, l'ho sentito anche a Tra Cologno e Lambrate. Allora quindi? È il caso che vada, e adesso vado. Allora magari mi faccio sostituire, non lo so, vediamo. Vediamo. Allora, mi raccomando, mi raccomando, non è che poi dopo già non sai se si sblocca la sbarra di Mediaset tutte le volte che ti presenti. Ma nessuno ti ha mai rotto le balle perché vieni qui al mattino? Federica Panicucci cosa dice? Ti ascolta al mattino? Sì, guarda, sei molto ascoltato. Non lo devi dire così. Mi stai facendo pat sulla spalla. Se è questo che vuoi la marchetta, te la faccio, basta chiederlo. No, volevo sapere se qualcuno ti ha creato problemi, come spero, da Juventino. No, ma dicono che sei anche molto bravo. Vabbè, allora. Niente, non riusciamo, la sbarra di Mediaset mi sa che si apre anche oggi, devo saltarla col metodo Fosbury. esatto. Vabbè, dai, mi devo fermare qui. Allora, Federico Novella, vi ricordo alle 9 avrai Genitore di Cucchi a mattino 5 e Silvia Brasca del TG della 7. Dai, ci piangiamo un buona po' sulla giornata, spalla. Buona settimana. State dai, allegri, via. State allegri, tutti allegri. Basta! Volete dire la vostra? 02-4652-4492. Chiamateci e parlate con la segreteria telefonica di 24 Mattino. 02-4652-4492. E ricordate, Alessandro Milan vi ascolta. 1, 2, 3. Adesso, tra poco, ci sarà Alessandro Milan che leggerà i giornali in un modo che nessun altro al mondo li sa leggere. 24 Mattino. L'Italia si desta. Siamo qui alle 7:18 minuti, cari ascoltatori, la 79esima settimana decisiva per l'abolizione delle province e la riforma elettorale può cominciare. E chissà se non arriveremo all'80esima, perché sarà decisiva la 79esima e risolveremo queste cose. Abbiamo tempo fino a venerdì, cari italiani, stiamo a vedere. Allora, oggi noi di cosa parleremo? Parleremo di questa nuova missione che è partita per gestire la questione immigrazione. Non c'è più Mare Nostrum, ma c'è Tritone, all'inglese, Triton. Cosa cambia? Cercheremo di capirlo. Avremo ospiti in un confronto Cécile Kyenge, ex ministro, e Aurora Lussana, direttore della Padania, due visioni certamente contrapposte di come vedere la questione immigrazione. Questo dalle 8:15. Mentre avremo ospite dalle 8:45 un avvocato, parleremo di, sapete, articolo 18, tutta la polemica, tutta la questione, la riforma. E vi racconteremo attraverso la voce di un avvocato, un giuslavorista che ha raccolto i casi più bizzarri di reintegra che ci sono stati in Italia, che cosa può produrre in alcuni casi la giurisdizione del mercato del lavoro. E va bene, andremo a scoprirlo più avanti. Ora andiamo a scoprire invece cosa ci propongono i giornali, che sono in edicola. È lunedì 3 novembre, oggi è il classico giorno in cui la politica cede un po' il passo e quindi ogni giornale fa scelte diverse, non ci sono grandi notizie politiche. Allora ecco qui, il Sole 24 Ore, comuni, effetto manovra, ecco i tagli città per città, dove vanno a incidere i tagli nei vostri comuni per quel che riguarda la manovra. E a proposito di tagli, o meglio di tasse, il Corriere della Sera apre così: l'ingorgo delle tasse a novembre. Per Repubblica invece la Corte dei Conti, così le regioni truccano i bilanci. Questa è l'apertura. Mentre La Stampa, ricercatori all'università, solo uno su 100 trova posto. L'apertura politica è solo per Il Messaggero: Renzi, ai ribelli andate pure. E pensate, una dichiarazione che Renzi ha fatto nel libro di Bruno Vespa che uscirà giovedì, è l'apertura del Messaggero. Per Il Giornale invece, l'Italia bloccata, svaligiati dai sindacati, sciopero selvaggio dei dipendenti all'Italia che getta nel caos Fiumicino. Queste alcune delle aperture. Voglio partire però da alcuni episodi di cronaca. Come avete visto, la cronaca oggi la fa da padrone. La vicenda, che ancora non si è conclusa, dell'errore umano che ha fatto invalidare migliaia di test di medicina. È stato un errore umano la trasmissione invertita di alcune domande, per cui hanno fatto delle domande ad alcuni e dovevano essere fatte ad altri di coloro che sono presentati ai test di medicina. La classica buccia di banana. È successo dunque che 11.242 candidati dovranno tornare a rifare il quiz nelle aree medica e servizi clinici. Dovranno risottoporsi al test, ricominciare tutto da capo. Questo per un banalissimo errore di esecuzione che ha invertito le 30 domande generali di due aree, quelle dei servizi clinici al posto dell'area medica e viceversa. Ed è stato proprio un errore umano. Può succedere nel 2014. L'errore umano è per esempio di Marco Lanzarini, direttore dimissionario del Cineca, questo consorzio che ha curato le domande, e intervistato da Repubblica, da Corrado Zunino, dice: nessun sabotaggio, è stata colpa mia. Ora però non fermate il concorso nazionale. Mi sono dimesso subito. Sono responsabile del fallimento del Consorzio Nazionale per le Specialità di Medicina, sono il direttore generale del Cineca, le questioni operative stanno tutte sotto la mia responsabilità. Speravo che il mio presidente Emilio Ferrari fosse tenuto fuori dalla bagarre, ma vedo che si è arreso pure lui. È stato l'errore più sciocco che si possa immaginare, così lo definisce, non lo avremmo mai immaginato. Uno scambio di file nel momento in cui da un dischetto del Cineca i dati vengono riversati sul database del Ministero. È così, semplice e terribile, mi creda. Ma qualcuno addirittura parla di un tentativo di boicottare, sabotare il primo concorso contro i baroni dell'Ateneo. Ma no, proprio no, è stato un errore materiale, lo garantisco al 100%, un vulnus da informatici, non da tecnici della materia. Ha fatto tutto questo un operatore che però non rischia il posto di lavoro perché l'errore umano può succedere, ma la responsabilità è soltanto mia. E vi prego, non accanitevi col direttore, il professor Ferrari, che non ha colpe. Professor Ferrari, che invece fa anche lui un'intervista al Messaggero e dice: siamo scivolati su un errore umano, l'informatica non c'entra nulla, è stato un mero errore materiale, l'inversione di due aree di domanda che non ha nulla a che vedere con un supporto, un intoppo tecnico. Per questo ho deciso di presentare le dimissioni dal momento che mi trovo a ricoprire la carica di presidente. Vabbè, insomma, un pasticcio clamoroso, caos dopo l'annullamento e 11.000! 242 candidati, che già alcuni di voi magari li sento disperati, avete fatto l'esame, magari l'avete passato, alcuni vi dovete ripresentare, cioè non è che ci sono alternative, questo è, vi dovete ripresentare e dovrete rifare il test. E quando si dice ma pagherà, pagano, si sono dimessi quelli che hanno sbagliato, più di così che cosa devono fare. A proposito di questioni annesse, oggi La Stampa fa un articolo, per la verità è la prima pagina ed è il titolo di prima pagina, dopo i test annullati a medicina, affianca questa notizia il fatto che i ricercatori universitari in Italia sono destinati a rimanere precari a vita. A vita. C'è uno studio che viene spiegato a pagina 3 da Flavia Amabile che recita così: 99 ricercatori su 100, 99 rimarranno precari a vita. Solo un ricercatore su 100 nelle università italiane ha davanti a sé una possibilità vera di stabilizzazione. Gli altri 99 stanno perdendo tempo. Questo è lo studio che viene presentato, i ricercatori precari a vita, porte chiuse negli Atenei, effetto perverso delle riforme in serie, solo uno su 100 può essere stabilizzato. Cari ragazze, cari ragazzi che fate o pensate di fare ricercatori, meditate, uno su 100 verrà stabilizzato, gli altri no. Ma, come dire, voglio saltare subito all'articolo che stravince oggi il premio Mani sul Volante, l'articolo che ci fa più incazzare di questa giornata. Per iniziare bene la settimana, Corrado Zunino racconta a pagina 4 di Repubblica la cuccagna dei premi ai dirigenti pubblici. C'è anche un bonus da 8.000 euro per contare le scrivanie. Succede in Italia, è tutto vero. Al comune di Perugia, racconta Repubblica, i 36 dirigenti si sono divisi 188.000 euro in premi, 5.200 euro a testa in media. Un 6% abbondante di aggiunta sul loro stipendio. Obiettivi raggiunti, tutti. I dirigenti che non hanno raggiunto gli obiettivi hanno un premio lo stesso, solo un po' più magro, 2.000 euro. E pensate che c'è anche chi ha ricevuto un premio perché ha ottenuto l'obiettivo, cioè celebrare i 50 anni del gemellaggio tra Perugia e Bratislava. Questo era. E poi soprattutto un manager pubblico è stato premiato per avere attivato una nuova procedura periodica di monitoraggio di mozioni e ordini del giorno deliberati dal Consiglio Comunale. Ma c'è anche chi si è impegnato e ha ottenuto il premio, udite udite, per questo: razionalizzazione del servizio di inventario dei beni mobili attraverso l'aggiornamento informatico delle attrezzature presenti nelle strutture. Si tratta della ragioniera Luciana Lucarelli, che in pratica, scrive Repubblica, ha ottenuto un bonus da 8.721 euro per avere contato scrivanie e computer presenti negli uffici. Ma non è finita. Un dipendente sempre del municipio di Perugia, l'avvocato Mario Cartasegna, tra stipendio fisso e premi per cause vinte, è andato a riposo con un vitalizio monstre da 53.000 euro al mese. 53.000 euro al mese più 83 euro al mese, e non ha smesso di collaborare col comune e ogni tanto usa pure l'auto blu, così racconta Repubblica. ma poi ci sono altri premi a Lecce, insomma il Bengodi dei premi ai dirigenti pubblici per risultati ottenuti, ovviamente tutti li ottengono i premi, anche, soprattutto, chi conta bene, spero bene, le scrivanie del comune di Perugia. Io sono qui a condurvi per mano attraverso la selva oscura delle vostre rabbie, dei vostri odi, delle vostre umiliazioni. Alessandro Milan, il pizzaiolo dell'informazione. Vabbè, alle 7:32 minuti, oggi sui giornali, cari ascoltatori, avviene qualcosa di straordinario. Per un giorno la politica è in pratica silente, non ci sono grandi dichiarazioni, sarà stata anche la domenica, sarà stata anche la sconfitta del Milan che ha mandato tutti in depressione. Sta di fatto che oggi sui giornali si riscoprono temi diversi. Ah, la politica, il chiacchiericcio della politica si ferma, e ci sono i giornali che aprono chi sulla ricerca, chi sulle tasse, chi sui comuni, i conti delle regioni, insomma altre notizie. C'è un mondo anche diverso, no? C'è una realtà un po' da toccare con mano per una volta al giorno, perché la politica è tutta riassunta così, con Landini che ieri si è presentato da Lucia Annunziata, ha detto che bisogna, che Renzi sta sbagliando tutto. Renzi, sono state mandate alle stampe alcune anticipazioni delle dichiarazioni che ha fatto per il libro di Bruno Vespa, che uscirà giovedì, in cui ha detto Renzi: alcuni del PD vanno via, non ci perderò il sonno. Oggi Renzi andrà a Brescia in un'azienda per un'assemblea confindustriale e c'è un annuncio di protesta, alcuni cortei di Fiom, CGL. Ecco, la politica per un giorno è ferma così. Sì, si può aggiungere il fatto che Renzi dice: non cambieremo il Jobs Act alla Camera, e il capogruppo del PD alla Camera Speranza fa un'intervista, ma così in basso, pagina 10 di Repubblica, intervistato da Umberto Rosso, dice: ma noi non siamo dei passacarte, vorremmo cambiare la legge. Stop di politica e dichiarazioni di politici oggi dai giornali, non ne abbiamo oltre, e bene così. E invece abbiamo altre cose che ci riguardano più da vicino, per esempio le tasse, l'apertura del Corriere della Sera: novembre si candida a essere il mese delle tasse, racconta il Corriere della Sera. Lo so che amavate novembre, da oggi lo amerete sempre di più. Fisco a novembre 221 adempimenti, pagina 2 del Corriere. Isidoro Trovato racconta: quali sono i due periodi dell'anno in cui si sente parlare di ingorghi? Estate e vacanze natalizie, e il fisco si adegua. Il groviglio di scadenze che ha agitato le notti di imprese, professionisti e contribuenti in estate si ripresenta anche in quest'ultimo scorcio 2014. Da qui a dicembre, alla fine dell'anno, saranno oltre 400 gli adempimenti fiscali. E così succede che, al di là delle buone intenzioni di velocizzare manifestate dal governo, eccoci 221 scadenze che ci attendono a novembre. C'è tutto il dettaglio delle scadenze a pagina 2 con una grafica. E fa un po' sorridere, ma è anche un po' un segno di speranza, forse, l'articolo a pagina 3 che invece parla del progetto di creare la tassa unica. La tassa unica, il governo accelera, scrive Lorenzo Salvia, siamo sempre sul Corriere a pagina 3, sulla tassa unica per la casa. Il primo passo è la fusione della TASI con la vecchia IMU. Rimarrà fuori invece la TARI, la tassa sui rifiuti, sia perché le modalità di calcolo non sono omogenee, visto che non c'entra la rendita catastale, sia perché resta in piedi l'idea di agganciare la TARI alla quantità di rifiuti prodotti. Un progetto annunciato più volte ma mai realizzato, che in ogni caso richiede tempi lunghi. Ci sarà questa tassa unica sulla casa? Chi lo sa? Staremo a vedere. Intanto ci sono le tasse sotto forme di conti, tra poco con Mauro Meazza magari lo vedremo, solo 24 ore, l'apertura del Sole è dedicata a tutti i conti dei comuni. Quanto la manovra impatta sui comuni? L'effetto manovra c'è sul Sole 24 Ore. I tagli città per città, Reggio Calabria e Milano si risultano le città e i comuni più penalizzati, mentre ci sono saldi positivi in altre amministrazioni, ma poi lo vedremo appunto con con Mauro Meazza tra qualche minuto. A proposito di conti, la Corte dei Conti ha fatto i calcoli delle regioni ed è l'apertura di Repubblica. La Corte dei Conti, così le regioni truccano i bilanci. Federico Fubini e Roberto Mania, l'articolo inizia in prima pagina, raccontano di prestiti dal tesoro non regolarmente iscritti tra debiti in Piemonte, cessioni di immobili in Liguria che risultano partite di giro in grado di arricchire solo la cassa di risparmio di Genova, discrasie, questa cosa, discrasie che impediscono di parificare, cioè dichiarare credibile il bilancio della Campania, e così via, Poi le spese non coperte della Sardegna, i controlli inesistenti in Calabria, la legge senza relazioni tecniche in Sicilia, gli aumenti di capitale delle società termali in Toscana, le spese non giustificate dei presidenti in Trentino Alto Adige, i 1600 dipendenti fuori bilancio del Friuli. Non c'è regione che non esca indenne. Da quest'anno la Corte dei Conti ha il potere di controllare e certificare i conti dei governatori grazie a una norma del 2012 e da qualche mese dalle relazioni della Corte vengono fuori alla luce centinaia di trucchi e imbellettature che sconfinano a volte in falsificazioni di bilanci. Segue l'elenco regione per regione. Eccolo qui, pagina 2 e 3 di Repubblica, i bilanci truccati delle regioni tra dipendenti fantasma, debiti non registrati. L'allarme della Corte dei Conti, e trovate poi l'elenco di tutto quello che è sbagliato nelle regioni. A proposito di regioni, a proposito di leggi, oggi Open Polis renderà noto un rapporto sulla produttività dei parlamentari. Chi sono i parlamentari che producono più progetti di legge? C'è da dire una cosa, una premessa, che molto spesso la maggior parte di questi progetti di legge rimangono e proposte di legge in cassetto. Perché il dato fondamentale, come racconta la stampa a pagina 7 di questo rapporto, è che l'84% delle nuove norme sono opera dell'esecutivo, dunque decreti legge che vengono fatti dai consiglieri dei ministri e poi convertiti in leggi. Poche leggi approvate, governo ingordo, così il Parlamento è diventato inefficace. David Allegranti racconta sulla stampa pagina 7 questa inchiesta, questa ricerca di Open Polis che verrà presentata oggi, è stata anticipata dalla stampa. Il dato fondamentale, 84% delle norme sono dell'esecutivo, mentre per quel che riguarda l'indice di produttività il più produttivo è il deputato Matteo Bragantini della Lega, davanti a Francesco Paolo Sisto di Forza Italia e Massimiliano Fedriga, sempre della Lega, per la Camera. Al Senato invece al primo posto Loredana De Petris di SEL, davanti a Giorgio Pagliari del PD e il leghista Calderoli, che è anche vicepresidente di Palazzo Madama, come elenco di come numero di proposte di legge. Ma ripeto, poi queste proposte rimangono lì e niente. A proposito di stipendi, una notizia dalla politica c'è, interessante, oggi sui giornali. A pagina 6 della stampa, in Senato arriva la sforbiciata sugli stipendi. Carlo Bertini racconta che è in vista una mini rivoluzione che i questori di Camera e Senato stanno approntando nella più assoluta riservatezza. Vabbè, insomma, più assoluta, viene anticipata oggi dalla stampa. Comunque, l'idea è quella di equiparare lo stipendio di deputati e senatori, perché i senatori hanno qualche indennità in più. Per i deputati non cambierà nulla, ma si punta a una sforbiciata di circa 1000 euro netti al mese ai senatori, visto che il loro trattamento economico, quello dei colleghi, è più favorevole rispetto ai deputati, e quindi sia sforbiciando un po' l'indennità sia sforbiciando un po' la diaria, l'obiettivo è quello di togliere 1000 euro ai senatori e parificare lo stipendio tra deputati e senatori. I deputati gongolano, finalmente non si sentiranno vittima di un'ingiustizia a favore invece dei senatori, e i senatori invece gongoleranno un po' di meno per questa cosa che sta succedendo tra Camera e Senato. A proposito, siete partiti ieri da Fiumicino e il vostro bagaglio non è arrivato con voi? È successo ieri che c'è stato uno sciopero, definito sciopero selvaggio. Questa è l'apertura, ad esempio, del giornale, svaligiati dai sindacati. In realtà il tema è molto semplice. In vista di alcune dismissioni di posti di lavoro, ieri a Fiumicino hanno pensato bene di togliere le password agli addetti ai bagagli 24 ore prima del possibile licenziamento. Hanno disattivato le password degli addetti al sistema di smistamento proprio per avviare i licenziamenti degli esuberi previsti dal piano di mobilità. E quindi non è che c'è stato uno sciopero, cioè non so come dire, gli hanno disabilitato la password. Quindi, volendo anche, gli addetti agli smistamenti dei bagagli, non avendo più la password, non avevano più i codici per sapere quelle valigie in che aereo dovevano essere imbarcate. Insomma, non si sa se sciopero selvaggio o gran pasticcio, sta di fatto che un migliaio di persone sono partite ieri da Fiumicino. La situazione poi si è risolta attorno, credo, a mezzogiorno, a l'una, ma tutti i voli del mattino sono partiti. Magari io vado a New York, vado a Rio de Janeiro, vado in Europa, vado di qui, vado di là, e il bagaglio è rimasto a Fiumicino perché nessuno sapeva dove imbarcarlo. Questo succede 2014 Italia. Mauro Meazza, buongiorno. Buongiorno. Tutto bene? Come stiamo? Va bene, il campionato è fermo, quindi così. Mi risulta. Ho visto una... Ti abbiamo chiamato a casa sullo 02 per il prefisso di Milano? Sì, il prefisso di... sì, per quello lo dici. No, ho visto una bella gara a Austin di Formula 1, seguito con molto interesse. Sì, sì. Io mi do ormai al cricket. Piaciuta molto la combattività di Alonso, come sempre, però anche la rimonta di Vettel, diciamo. Il tennis, guarda che regala soddisfazione il tennis. Tu dici che potremmo... No, adesso è molto interessante il finale di campionato per la Formula 1, dicendo naturalmente, non vorrei che tu fraintendessi. Intanto, così leggevo su Sole 24 Ore buone e cattive, meno buone notizie, come dire, cioè ad esempio il taglio prevedibile per i fondi pensione, visto l'aumento annunciato nel disegno di legge di stabilità, e qui insomma, come dire, ci rimettiamo in base a qualche conticino che abbiamo provato a fare, che presentiamo oggi su Sole 24 Ore, ci si rimette fino all'11%. Vabbè, però invece, guarda, con l'esperto risponde trovi le indicazioni per il bonus dei lavori in casa. Vuoi fare dei lavori in casa? Vuoi muovere questi due eurini finalmente? Ci sto pensando. Adesso non vorrei che, avendo detto due, tu ti fossi irritato. Sì, un pochettino. Oggi è un numero, il due, che ci dà un pochino fastidio, come dire. No, beh, molto interessante. E poi ti segnalo anche tutto il nostro lavoro, che già hai visto, il bilancio della legge di stabilità per i comuni, quindi il dare e l'avere in qualche modo, chi ci guadagna, chi ci perde, sempre, perché per guadagnarci però bisogna avere il bilancio abbastanza in ordine, cosa che non è facilissima, per dir così, per usare un eufemismo, in molte autonomie locali. E poi hai visto che l'infortunio, devi stare attento a come te lo procuri, perché in auto viene indennizzato un po' meno rispetto a chi si infortuna non in auto, ma ti spiegano tutto oggi su Sole 24 Ore Valentina Maglione e uno dei nostri esperti, che naturalmente poi presentiamo, Filippo Martini, che poi presentiamo in dettaglio. Indovina in quali pagine? Forse quella lì. Norme. Forse quelle, le pagine di norme e tributi, norme, esattamente. E poi risparmio e famiglia, dulcis in fundo, perché parliamo, tra le altre cose, anche di sconti sulla benzina con le carte fedeltà, le carte della grande distribuzione. Alessandro Milan ti mette le ali. Allora, le 7:47 minuti, ci sono ancora tante pagine dedicate alla vicenda Cucchi, la morte di Stefano Cucchi, per la quale ormai verdetto d'appello, si è stabilito, non esiste alcun colpevole, tutti gli imputati sono stati prosciolti per insufficienza di prove. Oggi, come abbiamo sentito, i familiari di Cucchi verranno ricevuti dal procuratore di Roma Pignatone, che ha detto ieri, se emergeranno fatti nuovi o comunque l'opportunità di nuovi accertamenti, la procura è sempre disponibile. D'altronde ha aggiunto Pignatone, non è accettabile dal punto di vista sociale e civile, prima ancora che giuridico, che una persona muoia non per cause naturali, mentre affidata alla responsabilità degli organi dello Stato. Le polemiche non si placano. La sorella di Stefano Cucchi, Ilaria, fa due interviste al Corriere Repubblica. Il Corriere dice: è proprio lì che nasce tutto, sono state fatte male le indagini. Bisogna rifare le perizie, diranno che le botte furono letali. Racconta ancora: io vidi mio fratello uscire perfettamente sano dalla palestra, abbiamo ancora il badge con l'orario, e poi l'ho rivisto sul lettino dell'obitorio qualche giorno dopo. In questi anni invece ho dovuto assistere a che cosa? Al processo a mio fratello, alla sua vita, alla sua famiglia, a cosa stava, a come stava, a cosa faceva. Addirittura in aula c'è chi ha chiesto com'era il rapporto di Stefano con la sua cagnetta. Si rende conto, dice al Corriere della Sera Ilaria Cucchi, un'umiliazione continua, un dolore perenne, insomma hanno fatto il processo al morto. Le sembra giusto? Così dice in questa intervista di Flavio Haver. Anche Repubblica pone l'accento sulle parole di Pignatone, che dice è inaccettabile morire mentre si è affidati allo Stato, mentre su questo Giuliano Ferrara, spesso in controtendenza, critica soprattutto quella parte dell'opinione pubblica che ha esibito l'uso cinico della morte, come lo definisce lui, cioè il fatto di sbattere in prima pagina o nelle TV le foto di Cucchi, ma non solo di Cucchi, anche di altre persone che sono state che sono morte in situazioni da chiarire, perché affidate a uomini delle forze dell'ordine. E questo sistema dell'informazione, scrive Ferrara, se ne fotte allegramente per le spregevoli ragioni che ho detto, cioè leggendo certe cronache, guardando i cadaveri tumefatti effigiati per impressionare, emozionare il lettore, leggendo le cronache di certi processi che si vorrebbero sommari, in cui incriminazione e condanna degli agenti o del personale sanitario dovrebbero fare da prova di un pregiudizio, di una condanna preventivamente pronunciata dal tribunale, si resta stupefatti di tanta avventurosa e baldante incomprensione del fatto doloroso. Noi pubblicammo la testa decollata e caravaggesca di un ostaggio giustiziato in nome dell'Islam misericordioso. Ma dichiarando, il nostro era un giudizio storico e politico al quale intendevamo sensibilizzare l'opinione occidentale distratta e intimidita. Per analogia, chi conduce queste campagne sul dolore, chi pratica questa informazione deturpata dall'uso del dolore, dovrebbe dichiarare che lo Stato liberale è fallito, che la polizia e i carabinieri menano i giovani per un'impostazione ideologica o abitudine barbarica, che i giudici li mandano assolti per solidarietà di casta, che agenti e medici e infermieri coinvolti nei casi sono tutti colpevoli. Ma se lo interrogassi, il giornalista collettivo mi risponderebbe che no, vuol solo riparare un torto, non è che lo si possa fare con scrupoli ipocriti. I torti si riparano gettando in pasto alla folla immagini di morte e di sofferenza che in sé non dimostrano alcunché, ma lasciano l'impressione di un delitto di Stato, per di più quando questo sia non già escluso dai tribunali, da un tribunale che assolve, ma lasciato impunito da togati compiacenti. Insomma, conclude Ferrara, fa un po' come ti pare, ma pensaci, giornalista collettivo. Il titolo è proprio questo: uso cinico della morte, pensaci, giornalista collettivo, la critica all'esibizione di certe foto. Mentre il Corriere della Sera sta facendo meritoriamente, a mio modo di vedere, con Andrea Galli e Gianni Santucci da vari giorni, una inchiesta sulla occupazione delle case, occupazione abusiva delle case. Avviene a Milano, avviene a Roma, avviene nelle grandi città, avviene nelle periferie, è un fenomeno sempre più crescente, l'occupazione respinta a sassate. Questo per esempio è il titolo di pagina 9. Blitz di due ragazze rom incinte in un appartamento, insorgono gli inquilini irregolari che le cacciano sbattendo sassi contro la porta, qualcuno impugna un bastone e questo è l'ultimo episodio avvenuto in via Giambellino, periferia di Milano, di persone che poi cosa fanno di fronte all'autorità che è sempre più latitante, rischia di far degenerare la situazione in un risolviamo la questione tra di noi, a bastonate, a sassate. è l'ultimo episodio, ma racconta anche, raccontano Galli e Santucci, sempre sul Corriere, la storia per esempio di Zarina, rom, 31 anni, 12 case occupate. Cosa fanno? Vanno lì, magari un gruppo di persone, spesso sono rom, racconta il Corriere, sfondano una porta, mettono dentro due ragazze incinte, magari 20 anni, e dicono state qui a presidiare la casa, e poi intanto vanno a prendere mobili, cominciano ad andare a prendere altri attrezzi per arredarla, però il presidio lo fanno fare. Ecco, questa è la storia di Zarina, 31 anni, donna rom, ha già fatto 12 conquiste di case così. Succede a Milano, Italia. C'è tutto il dibattito invece sul Colosseo, perché un tweet del ministro Franceschini vuole togliere, o meglio togliere, coprire la parte, diciamo, la superficie del Colosseo per restituirla alla vecchia idea di dell'arena dei gladiatori di millenni fa. Cioè fare un piazzale monumentale, pavimentato, e rendere sotterranei e visitabili ovviamente quello che stava sotto il livello del terreno, tutti i corridoi dei gladiatori. È una proposta fatta dall'architetto Manacorda che Franceschini pare voglia sposare, e allora si farà il Colosseo, segue dibattito anche soprattutto tra gli amanti e i cultori dell'archeologia dell'arte. Ma siamo al momento conclusivo! Al momento della carta costa, l'articolo più inutile scavato sui giornali. Oggi vince un'intera pagina Maria Corbi sulla Stampa, sui ruggenti anni Ottanta. Qual è l'elisir di lunga vita di Sofia Loren, di Sandra Milo, di Andrea Camilleri, di Nicola Pietrangeli, di Giorgio Armani? Ma chi se ne frega! 24 mattino. Sono le 8:19 minuti, ben ritrovati da Alessandro Milan. Allora, da due giorni, dal 1° novembre di fatto, l'Europa ha lanciato un nuovo programma per fronteggiare, affrontare la vicenda dell'immigrazione via mare. Si chiama Triton, no? Tritone. Ce l'avamo abituati a Mare Nostrum, operazione che è nata proprio dopo la tragedia di Lampedusa circa un anno fa e che in un anno ha permesso di soccorrere 91.000 migranti, ha fatto arrestare 539 scafisti. In mare comunque sono morte molte persone, 499 accertate, e Mare Nostrum costava 9 milioni di euro al mese, 9 milioni. Ora appunto c'è Triton. Costerà sui 3 milioni al mese, sarà finanziata con il bilancio dell'Agenzia Europea Frontex. Cosa cambia per l'Italia? Qualcuno dice non molto, perché chiaramente il pattugliamento sarà di navi europee, ma l'Italia come luogo anche geograficamente è lì, non è che la possiamo spostare, sarà il paese che dovrà fronteggiare la questione del salvataggio dei migranti, la prima assistenza, la gestione degli eventuali aventi diritto allo status di profughi. Allora, in Italia le posizioni sull'immigrazione, lo sapete, sono molto ben nette, ma mi ha molto colpito, e alla prima nostra ospite vorrei appunto porre la questione di una posizione invece che ha stupito molti, quella di David Cameron, il premier britannico. Cameron ha detto: noi a Triton non partecipiamo, perché partecipare a questo tipo di missioni vuol dire incoraggiare i migranti a partire. Saluto Cécile Kyenge, ex ministro all'integrazione, oggi europarlamentare del PD. Buongiorno onorevole Kyenge. Buongiorno, buongiorno a tutti. Kyenge, cosa fa Cameron? Sbaglia? Dice che così si aiutano i migranti a partire? Ma per quanto mi riguarda sbaglia, perché si sta lavando le mani togliendosi da una discussione che è attuale, su cui anche il suo paese è chiamato a dare una soluzione. È chiaro che la soluzione non può essere interamente Triton, perché per quanto riguarda la mia visione è l'ennesima soluzione sull'emergenza, mentre oggi noi abbiamo bisogno di una soluzione politica. Quindi, oltre a fare queste dichiarazioni di di David Cameron, io direi che lui è chiamato a poter lavorare con tutti i paesi, gli stati membri, per trovare una soluzione degna del nostro, della nostra Europa. Per esempio, una soluzione degna potrebbe essere quello che ha detto Alfano nel lanciare Triton, dicendo la gestione delle domande degli aventi diritti ai profughi si gestiscano nei paesi di partenza. È una cosa possibile secondo lei? Ma guardi, in realtà questa proposta portata avanti dal nostro gruppo SD già dal Parlamento molto prima che si lanciasse Triton e ancora l'obiettivo di far uscire Mare Nostrum era questo: prevenire i morti nel mare non vuol dire semplicemente salvarli, ma evitare che le persone possano cadere in mano ai trafficanti, cioè poter intervenire ancora prima di poter prendere i barconi, cioè nei posti, creare dei presidi nei posti di transito dove passano i migranti. Devono essere protetti, perché finché noi non accompagneremo tutti i paesi a poter uscire da conflitti, da guerre, attualmente troviamo anche un'altra componente, che è quella del i profughi ambientali, cioè finché noi non daremo una soluzione a tutto questo è difficile dire che noi fermiamo la mobilità, gli spostamenti delle persone. Però, per cui bisogna cercare una soluzione politica, la soluzione sia politica sia di lungo. Ma è chiaro, questa è una soluzione anche Triton, anche secondo lei, di gestione dell'emergenza. Allora mi lasci presentare, le presento, io vi ringrazio di essere qua, perché insomma so che tra Cécile Kyenge e la Lega non è mai stata un rapporto molto tenero, diciamo così. Il direttore della Padania, Aurora Lussana, buongiorno, che è spesso nostro ospite, direttore. Buongiorno, eccoci qua. A te, Milan, e un caro saluto agli amici di Radio 24. Allora, fa bene Cameron, Lussana, dire così si incoraggia gli scafisti? Sì, Mare Nostrum è stato un incentivo alle partenze, uno spot per tutta l'Africa: venite in Italia, partite che tanto c'è posto per tutti. Purtroppo l'operazione Triton sarà la prosecuzione dell'invasione operata da Mare Nostrum, semplicemente perché nel sistema di protezione europea vige il cosiddetto regolamento di Dublino, ovvero un regolamento che è stato recentemente modificato, tra l'altro quando il tuo ospite, l'ex ministra dell'integrazione Kyenge, era in carica, quindi avrebbe potuto intervenire. Ormai purtroppo è troppo tardi. Infatti questo regolamento che cosa ci impone? Che il primo paese d'approdo, il primo paese d'ingresso del migrante regolare o irregolare che sia, è a carico dunque del paese che accoglie, quindi l'asilo, la possibilità di beneficiare di protezione umanitaria, sussidiario, dello status di rifugiato, è a carico comunque andrà dell'Italia. Quindi in questo non cambia niente, non cambia nulla. Le risorse sono scarse, il nostro sistema di welfare è in crisi, abbiamo una guerra fra poveri, dalle case popolari, di cui la Padania una settimana fa ci ha aperto, adesso ne parlano tutti. La prestazione di welfare nel nostro paese è universalistica, quindi aumentare gli ingressi, e scusa Milan se ti correggo, ma sono stati 150.000 sì, quelli che abbiamo accolto con Mare Nostrum, che ora alloggiano in hotel, in bed and breakfast, e magari li paghiamo oggi colazione, pranzo e cena, perché i costi sociali dell'accoglienza sono quelli che ci devono preoccupare. La missione militare adesso è scesa più o meno a 3 milioni al mese, non è questo il costo drammatico di pattugliamento. Ma sono i costi poi sullo Stato italiano. È la gestione, esatto. Però su questo mi sembra di poter dire, onorevole Kyenge, mi sembra di poter dire che siete in qualche modo d'accordo sul fatto che è un'emergenza che non va bene. Cioè il fatto che l'Italia debba pagare tutti questi... Sì. Un attimo di intervenire, perché la nostra ospite ha dato anche delle informazioni non complete, anche scorrette, quindi come nel su solito Dublino. Sì, esattamente, su Dublino, anche su quanto poi ha detto in seguito circa l'ospitalità, l'accoglienza. Dublino, ricordo bene che è partita nel 2003, quando al governo e chi erano i ministri erano quelli che hanno fatto la legge Bossi-Fini, quindi Bossi e Fini, che dovevano comunque intervenire con un governo di centrodestra su quello che era un regolamento che andava a modificare tutto l'assetto che riguardava le politiche migratorie. Ora, saltare quel punto dove loro come governo e soprattutto come chi si occupava di migrazione a quel tavolo cioè dove si potevano veramente, si poteva incidere, non erano presenti, sì, perché loro erano preoccupati a chiudere le frontiere, tant'è vero che hanno scoperto la libera circolazione quando c'è stata l'emergenza Nord Africa con l'ex ministro Maroni. Allora un politico deve essere lungimirante, non deve semplicemente guardare all'attualità e fare cattive informazioni. Ma lei dice questo sulla ora. Questione di Dublino, le chiedo però, non sulla le chienghe, di Dublino, che ha modificato, ha messo in ginocchio molti paesi, e le chiedo, è giusto che l'Italia debba sostenere invece, guardi, le cito questa dichiarazione del prefetto di Gorizia, l'ha scritto il giornale settimana scorsa, il prefetto Zappalorto ha detto, è il prefetto, quindi voglio dire il Viminale, metà dei profughi o finti profughi che arrivano qui a Gorizia, afghani e pakistani, in realtà sono dei furbi, arrivano in aereo in altri paesi, arrivano qui e chiedono lo status di profugo. È giusto che lo Stato italiano si sobbarchi queste spese? Guardi, noi abbiamo un problema, cioè che è quello di poter soprattutto cominciare ad aumentare, credo che questo il governo l'abbia annunciato e ne sono felice, aumentare le commissioni per quanto riguarda l'esame anche delle richieste di asilo e soprattutto anche accorciare i tempi per le persone, perché avere delle persone per 8 mesi, 1 anno senza sapere qual è il loro destino e poi avere una risposta dopo questo lungo tempo, è chiaro che mette in tilt tutto un sistema di accoglienza che andrebbe migliorato. Ora, parlare di furbi e cominciare a dire che arrivano qui quando noi non abbiamo degli strumenti per riuscire a poter dare lo status giuridico nei tempi brevi e giusti, mi sembra veramente fuori luogo. Questo è il prefetto che lo dice, cioè il prefetto di Trieste dice. Il prefetto sta sottolineando un problema, che è quella anche della semplificazione, diminuire i tempi della burocrazia, perché quando arrivano delle persone che per tanto tempo, in qualche modo, le persone non vanno abbandonate, che siano italiani, che siano stranieri, le persone quando hanno bisogno non vanno accompagnate, quindi una risposta va data. Questo è il punto fondamentale sul quale Aurora Lussana criticano la Lega: le persone non vanno abbandonate, cioè la linea della Lega, la linea di chiudere le frontiere è una linea antistorica, cioè come si fanno a chiudere delle frontiere, Lussana? Siano più disumani quei politici che invocano l'accoglienza senza limiti e poi illudono in maniera criminale tutti coloro che abbandonano quest'Africa dolente, dimenticata da tutti. È un problema internazionale che ripeto, questo ci dimostra perché la tua ospite al momento non è più ministro, non è più il titolare dell'integrazione. Il regolamento che è stato approvato nel luglio 2013, quando appunto la Chieng era ministro, ha abrogato il regolamento a cui lei fa riferimento del 2003, quando c'era Bosso e tutti quei cattivi del centrodestra che volevano garantire la difesa dei nostri confini. Perché avere della gente per strada che patisce, che soffre dell'illusione di una vita migliore, secondo me il più grande inganno è il neoschiavismo e il neocolonialismo che va combattuto. Quella è la volontà di essere disumani. Ripeto, l'accoglienza dei limiti, noi oggi, scheda del Viminale www.interno.it, abbiamo accolto giusto 4.000 richiedenti asilo su 150.000 profughi, presunti profughi, clandestini, migranti irregolari. Ma non è che perché le pratiche vanno avanti un anno, 2 anni per l'appunto? Allora, che la burocrazia sia drammatica per i cittadini italiani, per gli extracomunitari, mi pare evidente a tutti. Detto questo, 1.200 euro al mese per l'ultimo che sbarca domani mattina sulle nostre coste è un costo che il nostro paese non si può più permettere. E quindi come si chiudono le frontiere? È un dramma internazionale, hanno destabilizzato tutta l'area mediterranea, dal Nord Africa alla Siria, con operazioni di geopolitica americane che hanno, ripeto, destabilizzato tutta quell'area che ora si riversa in Europa. Tu vai a incidere in quei territori perché, ripeto, c'è un principio europeo del cosiddetto burden sharing, cioè ci facciamo carico in maniera equa delle persone che scappano dalle guerre. Ripeto, le persone che scappano dalle guerre, andate sulle agenzie stamattina perché stanotte sono arrivate altre persone da paesi che per fortuna non ho capito, ma siamo sempre lì, è il nodo che non si risolve, che se una persona arriva, intanto la devi accogliere e poi la devi identificare. Se arrivano senza documenti, ripeto, c'è tutto il procedimento, ti arriva e dice fuggo dalla guerra. Il paese d'approdo, il paese d'ingresso si deve far carico, deve accollarsi sulla scorta del regolamento Dublino 3 che regola l'asilo in tutta Europa, sottoscritto da ce li abbiamo noi come costi. No, ma questo mi è perfettamente chiaro, però voglio capire, cioè non è, non nessuno riesce ad avere una soluzione chiara a dire qual è l'alternativa, perché se uno arriva qui e dice sto scappando dall'Eritrea, poniamo caso, dove c'è una situazione di dittatura, scappo dalla dittatura, i documenti non li ho, bisognerà inevitabilmente fare un procedimento a capire chi sei, da dove vieni, hai stai scappando dall'Eritrea, mi stai mentendo, invece no, hai diritto, e qui si innesta la questione della burocrazia, un procedimento che magari dura un anno e mezzo, e questo povero Cristo cosa fa in questo anno e mezzo? Cioè, rimane qui e rimane a spese dello Stato, questo è il dato di fatto. Ma ripartiamo tra un attimo, dopo la pubblicità, con Cécile Kyenge, europarlamentare del PD, e Aurora Lussana, direttore della Padania. 24 mattino. Eccoci qui, stiamo parlando di politica immigratoria, di come affrontare le situazioni di immigrazione. Con noi ci sono l'europarlamentare del PD Cécile Kyenge, ex ministro dell'integrazione, e direttore della Padania Aurora Lussana. Vorrei sapere, no, sono cadute entrambe quelle cose che succedono, sono cadute entrambe le linee, ma adesso le recuperiamo. Comunque mi ha molto colpito ciò che mi ha mandato via Twitter nel frattempo un ascoltatore, dicendo ecco come si fa in Australia, e mi ha mandato un grande documento del governo con intitolato No Way, cioè le regole: se sali su una barca senza visto sappi che non approderai mai in Australia, qualsiasi barca che cerca di entrare illegalmente nel nostro paese verrà intercettata e respinta, e questo vale per bambini, famiglie, persone educate, persone non educate. Ecco, onorevole Kyenge, in Australia sono dei pazzi se fanno queste cose? Beh, guardi, intanto ho perso la prima parte. Sì, no, raccontavo semplicemente che in Australia un ascoltatore mi ha mandato questo messaggio, no way, no? Questi documenti, come dire, non pensate di mettervi su una barca e approdare in Australia, perché questo non succederà. Beh, io credo che ogni paese ha una sua storia, e sicuramente in questo momento noi non abbiamo bisogno di politiche che non capiscono che si tratta di una mobilità, di un fenomeno universale, cioè mondiale, in cui bisogna affrontare questo tema da un punto di vista di politica internazionale. Ecco perché dall'Unione Europea, a mio avviso, quindi quello che fa l'Australia, che è sicuramente discutibile e che non condivido, perché in qualche modo bisogna dare delle soluzioni e non certamente agire sull'emergenza. Allora, per quanto riguarda il mio punto di vista, cioè oltre a quello che ho detto anche prima, di poter stabilire e creare dei presidi e quindi coinvolgere le Nazioni Unite, la comunità internazionale e le organizzazioni che proteggono comunque per i diritti umani, bisogna anche riuscire a rimettere mano sul regolamento di Dublino, anche sugli obiettivi di Frontex, perché questa permetterebbe in qualche modo all'Unione Europea di avere un'unica politica, non di lasciare agli Stati la volontà di poter fare... Ma qua unica politica, c'è Cameron che addirittura dite fate voi, tanto noi stiamo al nord. Prima, cioè, noi stiamo al Cameron nord. Dovrebbe comunque mettersi insieme a tutti gli Stati membri per realizzare quello che è il vero progetto europeo, cioè contenuto nell'articolo 80, solidarietà e equa ripartizione delle responsabilità, non 5-6 paesi ma 28 paesi, e credo che dobbiamo arrivare a questo. Questo sì, è chiaro che dal punto di vista politico, Aurora Lussana, lo vedi possibile, cioè una risposta politica europea comune, oppure voi della Lega dite sì, ma intanto che c'è questa futuribile risposta politica europea comune, la situazione è che noi italiani ci troviamo a dover gestire continuamente questa emergenza. Ma certo che me lo auguro, che ci sia una visione comune e comunitaria della nostra dimensione. Diciamo, pure noi siamo un continente che dovrebbe non solo avere una moneta unica, ma anche politiche univoche anche in tema di immigrazione. Evidentemente siamo solo un continente unito da una moneta che ci ha portato anche al disastro. Quindi nell'attesa che l'Unione Europea capisca che è un dramma internazionale, va gestito in maniera comunitaria, la rogna ce la grattiamo noi, che vuol dire, ripeto, illudere e far morire in mare tutte le persone che partono oggi o domani e continueranno a partire anche con Triton, e ovviamente, ripeto, rischiamo di creare con l'immigrazione non solo un dumping sociale, salariale, e anche a questo punto di natalità. Noi abbiamo impoverito l'Europa con scelte economiche sbagliate. Ora non possiamo pretendere che l'Europa, che ormai è consapevole che i costi dell'immigrazione, che sono costi sociali altissimi, perché vuol dire garantire diritti, garantire bonus, servizi, accesso alle cure mediche, quindi ha dei costi sociali l'immigrazione non più sostenibili. E poi ripeto, questa idea che dobbiamo sradicare i popoli dalla loro casa per promettergli chissà che cosa nell'Europa felice. No, sradicarli no, ma magari fuggono. Magari. Allora sosteniamo delle politiche autentiche di solidarietà in Africa, senza violentare quei popoli e obbligarli a fuggire dalle loro terre. Io allora, in questo momento Matteo Salvini viene dato come leader dai sondaggi che ha il maggior gradimento degli italiani dopo Renzi. Cécile Kyenge, lei in passato ha detto che la Lega è un partito razzista, andrebbe addirittura anche escluso dalle elezioni, lo conferma? Guardi, io continuo a dire che noi abbiamo un problema culturale che dobbiamo affrontare e anche con forza, perché sono ormai una decina di anni che la Lega in questo momento continua a lanciare dei messaggi che sono quella di trasmettere paura e quindi di conseguenza anche di provocare comunque la guerra fra le persone, mentre noi in questo momento abbiamo bisogno di un altro tipo di approccio, anche di altri messaggi, che non vuol dire che non esistono comunque, cioè non esiste uno dei temi che dobbiamo affrontare tutti insieme, prima di tutto perché anche dal discorso che diceva la mia ospite, quindi io continuo a dire, già dal suo discorso si sente già in quale direzione e come si possono provocare chiaramente anche la guerra fra le persone, altissimi costi dell'immigrazione. Io vorrei che lei, la nostra ospite, ci desse dei numeri giusti per farci capire quanto versano i migranti in Italia totale, quanto spendono i migranti in Italia, il saldo. Allora vorrei che la nostra ospite parlasse con dati ben concreti. Insomma, giocano sulla paura, giocate sulla paura. Allora, secondo me, a mio avviso, è un problema che dobbiamo affrontare, perché non possiamo lasciar passare generazione e generazione che vengono in qualche modo influenzate da una politica che tende a... Ma un problema da affrontare come? Cioè, secondo lei proprio è un partito... Glielo chiedo così, proprio mi dica sì o no, è un partito che definirebbe razzista la Lega? È razzista. Guarda, vi spiego anche per quale motivo sono arrivata anche a questa conclusione. Cioè, basta ascoltare anche tutti i comizi che la Lega continua a fare durante i propri comizi. Cioè, sono veri e propri meeting, comizi che sono lì, no, quasi alla paura. Cioè, ma non è chiaro, insomma, Aurora, qui c'è una risposta da dare, perché insomma, è razzista perché giocate sulla paura. So che la Kyenge ha chiesto anche la messa al bando della Lega Nord, nell'attesa di una sorta di edito di Kinshasa. A questo punto io voglio solo dire che il sigillo infamante del razzismo è veramente un'infamia, alla quale io rispondo dicendo che il razzismo fu una teoria scientifica e politica utilizzata dai colonizzatori. La Lega è un movimento identitario che salvaguarda tutti i popoli, tutti i nativi di tutti i territori, quindi noi ci opponiamo a qualunque forma di colonialismo che utilizzava il razzismo come legittimazione. Mi diceva dei numeri, due numeri: Fondi Cresco e Nasco a sostegno della maternità in Lombardia, in 3 anni di sperimentazione avevano messo a disposizione 18 milioni, questa era la dotazione. Il 75% di queste donne nazionale, lei ci deve dare a livello nazionale. Te ne do due, allora. E vabbè, è la Lombardia. Trasmettere allora, notizie giuste. Finché non c'ha l'editto posso parlare. 3 anni di sperimentazione, c'era una dotazione di 18 milioni, il 75% di queste risorse è finito a donne extracomunitarie. L'altro dato che ti do al volo, perché ci ho aperto l'altro giorno con la Padania, legge di stabilità, articolo 17, tolti 100 milioni al fondo disabilità, dati 178 milioni al fondo per i richiedenti asilo. C'è una discriminazione in atto, ci sono delle iniquità che fanno male ai cittadini italiani, ai cittadini stranieri che nel nostro paese vivono in maniera regolare. Ma infatti io credo che i dati a cui si riferisse anche l'ex ministro Kyenge era il fatto dell'immigrazione come dato nazionale. Cioè, è chiaro che gli immigrati portano anche tantissima ricchezza, quelli che sono regolari, che lavorano, che pagano le tasse, che fanno girare anche l'economia. Però come vedete, vedete, insomma, su questo dibattito, su questo tema, le posizioni sono chiare. Io mi devo fermare perché devo cambiare tema nell'ultima parte di 24 mattino. Vi voglio ringraziare perché so che non è insomma, avete dibattuto in maniera civile, anche confrontandovi sebbene le posizioni di partenza siano posizioni di partenza antitetiche e le conosciamo, ma vi ringrazio per essere state qui. L'europarlamentare Cécile Kyenge del Partito Democratico e Aurora Lussana, direttore della Padania. Dopo il traffico c'è un avvocato che però voglio già salutare, l'avvocato Andrea Del Re con noi. Buongiorno avvocato, jus laborista. Buongiorno. Tra poco ci racconterà qualcosa che sull'articolo 18 e affinità e amenità italiane che magari ci farà sobbalzare sulla sedia. 24 mattino. Allora, 35 anni di lavoro come jus laborista, cioè avvocato del mondo del lavoro, l'avvocato Andrea Del Re, che ai nostri microfoni ha raccolto, avvocato, con una premessa che lei ha fatto, che secondo me è giusta, cioè i magistrati che ho incontrato in tanti anni sono stati mediamente ottimi magistrati, no? Questo lo dobbiamo dire. Non c'è dubbio. Però lei ha raccolto un po' i casi più assurdi di reintegra dopo licenziamenti perché i lavoratori hanno fatto ricorso all'articolo 18, insomma. Per esempio, il più clamoroso. Ma c'ha la radio accesa, tra l'altro, le deve chiedere no, di spiegare. No. C'è un eco fastidioso. Va bene, dica. Allora, il più incredibile è quello del vigile del fuoco che era stato trovato colto in flagranza in una rapina a mano armata e che fu sospeso chiaramente dal suo corpo, e nell'attesa del giudizio penale egli ebbe a ricorrere al giudice del lavoro, il quale, con una sentenza nella quale cita costantemente, il giudice era notoriamente un appassionato di cinematografia e cita tipo il film Rapina a mano armata di Stanley Kubrick, sì, e altresì il film L'homme de train di Patrice Leconte, dove ovviamente sì, uno dei personaggi dice: vedi, nessuno di loro è un vero e proprio criminale, hanno tutti un lavoro e apparentemente conducono una vita normale, ma hanno i loro problemi. E l'hanno riassunto, quindi. Perché chiaramente poi alla fine l'ha reintegrato sostenendo che sarebbe scandaloso nel frattempo, c'è una moglie e due figlie che lo attendono a casa e che non possono mangiare senza... Ah beh, il buonismo italiano, questo paga poi sempre. L'infermiere professionista in una casa di cura di malati mentali che viene a diverto con il paziente, lo calcia nello stomaco, lo butta in terra, gli salta sopra, arriva una collega e gli dice: fermati, che fai? No, lasciatemelo finire. E il giudice lo reintegra dicendo: sì, via, aveva perso la testa, può succedere qualche volta, via, non lo farà più. Non lo farà più, lo speriamo, insomma. E poi avvocato? Vabbè, chiaramente ci sono poi i numerosissimi casi di furto, modico furto. Tutti quanti nel penale vengono condannati anche con pene severe, perché il furto rimane un reato serio nel nostro paese, ma da quell'altra parte, a livello invece civilistico, diritto del lavoro, vengono tutti reintegrati sul presupposto che il furto era di modica consistenza e quindi poi rapporto. Ma poi, avvocato Del Re, tra l'altro, molti abbiamo questa cosa molto da maschietti. Io ho letto alcuni casi in cui ci sono colleghi che mostrano i genitali alle donne, cioè questo è un gran classico, non si sa perché noi sporcaccioni così, ma uomini. Quello, sì, esatto, quello è singolare: nel caso in cui un uomo mostra i genitali ai propri colleghi nel reparto, viene considerato un fatto non grave in quanto non c'erano donne. In un'altra sentenza, nella quale invece il dipendente mostra i genitali a delle colleghe, in questa circostanza dice che il fatto sarebbe sproporzionato rispetto al licenziamento. Quindi dico, come si vede anche ancora qui, dipende esattamente, fra l'altro, sono contraddittori tra di loro in questa circostanza. Ma lei, scusi, ha messo insieme un po' tutti questi casi per arrivare a una spiegazione, cioè a dire, insomma, forse se questo articolo 18 abbiamo un po' abusato oppure no, perché qua poi si entra in ambiti molto molto delicati, avvocato. No, esatto, il problema, uno dei problemi principali, ma sicuramente è stata l'imbarazzante applicazione che ne hanno fatto soprattutto dagli anni 70 fino a fine anni 90, perché la situazione si è un po', diciamo così, migliorata con un maggiore equilibrio negli anni dal 2000 in poi, e chiaramente lo stesso Giugni, il padre fondatore, come noi sappiamo, dello statuto, certo, nell'87 proporre una modifica sostanziale di questo articolo, vista quella era stata l'applicazione della norma, poi non ci riuscì. in realtà sono proprio queste sentenze così particolarmente, non parliamo poi delle offese, delle ingiurie. Ah, cioè si può dire di tutto, si può dire di tutto, dire al datore di lavoro va fa oppure ma va a quel paese oppure esci fuori, ci penso io e poi ne riparliamo, rispetto al posto di lavoro viene considerato un'ingiuria che non c'ha corrispettivo. Senza contare il classico caso del lavoratore in malattia che viene trovato a lavorare giocando a pallone nella nebbia padana, però questo gli faceva bene perché essendo stressato e avendo un esaurimento nervoso doveva scaricarsi e quindi giocare a pallone e prendere eventualmente una bella bronchite gli avrebbe fatto meglio e non rimanere a casa, e quindi non può essere licenziato. Sì. Tra l'altro dal suo accento noi capiamo, lei è di Firenze, no? Ricordare titolare dello studio legale del Re Sandrucci. Allora, avvocato del Re, ma questo fiorentino che vuole cambiare invece le cose sull'articolo 18 fa bene o meno lavoro per lei? Sicuramente, veda, lo dico con franchezza, potrebbe comportare un minor lavoro, ma il discorso è veramente, in questi 35 anni ho visto datori di lavoro che sono visti reintegrare i dipendenti dopo anni e anni e anni. C'è lo stesso caro amico Ichino, il quale nel suo libro Inchiesta sul lavoro racconta di un caso, perché capisce primo grado, secondo grado e Cassazione. Cassazione dopo 12 anni dice che il rapporto lavoro è che è licenziamento è illegittimo. Ma lo sa 12 anni di stipendi e contributi, vengono fuori somme rilevantissime, l'importanza addirittura finì il datore di lavoro, finì in procedura concorsuale, ma sono cose che stanno né in cielo né in terra, come il caso famoso di quello che fra l'altro per dispetto al direttore generale mandava degli ordini firmati falsamente dal direttore generale e a questo che gli arrivava a casa migliaia di merci costantemente e questo non si capacitava come. Finché si resero conto che era un dipendente e faceva questa cosa assurda e il giudice disse sì, su via, era uno scherzo, un atteggiamento una bischierata. Si vedeva talmente che chiaramente che la firma era falsificata che anche lo stesso di distributore doveva rendersi conto che non poteva essere un ordine serio. Ma si scherza. Però insomma il vigile del fuoco colto a fare una rapina a mano armata, ma insomma imitava il film di Stanley Kubrick, quindi quello forse, e quindi rimesso in servizio era la cosa migliore. Sai, quello ci vestiva da cowboy e da Pecos Bill e tutte le volte che arrivava un cliente con la pistola ad acqua. Ma dove? Ma dove questo? Ma dove? Questo fu a Monza. Ah, in una banca, se non sbaglio. Dipendente in una banca che andava vestito da sceriffo. L'unico autorizzato a portare la pistola in banca, insomma, lui fingeva le rapine. Forse si illudeva di poter spaventare qualche eventuale rapinatore, ma la cosa era talmente ridicola. Vabbè, reintegrato anche questo. No, quello se non sbaglio è finito licenziato, non gliela fatta. Comunque, avvocato, è stato molto, molto simpatico anche nel parlare di un tema in realtà molto, molto serio, quello dell'articolo 18, i casi più incredibili di reintegra che ci sono stati nella sua esperienza professionale. Era l'avvocato Andrea Del Re, giuslavorista dello studio del Re Sandrucci a Firenze. Con lui finiamo e lo ringraziamo, con Lorenzo Nespoli in redazione, e anche voglio salutare Alessandro Longoni, Anita Panizza, oggi torna Elisabetta Fusconi anche dalle ferie, siamo tutti insieme all'alpino Peter Bescapè in regia. Tutti ora berci una bella grolla e a domani alle 6:30.